init music. Init for you. Init your music for you. Contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. E benvenuti a Music for Youth, uno speciale per la mucchiata natalizia. Buonasera Alvise Favotto. Sono morti tutti e due quelli di Casa Biennello, so. Però ne abbiamo resuscitati due del cast. Uno faceva la pianta grassa, quell'altro... La prima cosa vorrei dire che mi sono appena toccato le palle dopo questa... Uno faceva la pianta grassa, quell'altro faceva l'innaffiatoio. Chi faceva l'innaffiatoio era Cassiano. In realtà volevo... Ah no, beh, grazie per la pianta grassa. Mi ci vedevo di più nella pianta grassa. Comunque io invece, a differenza di tutti voi che siete dei maleducati, saluto Sandra e Raimondo. Un minuto di standing ovation per Cassiano, ovviamente. Non può essere un minuto perché non è radio friendly il minuto, ricordatelo. Buonasera a tutti. Simofonic, progetto Gain on Top, purtroppo di nuovo tra le nostre mura. E ripeto, purtroppo. Purtroppo tua sorella. Per la quattordicesima volta, probabilmente, esatto. Vero? Ormai un ospite fisso quanto la muffa sul lato nord, sulla parete nord dei nostri studi. Quei classici soprammobili che cambiano colore con il tempo. E invece una news, Cassiano, no, buonasera. Volevo dire prima che sono andato in bagno e c'è lo spazzolino di Simone. Ah, tra l'altro hai finito il dentifricio, ti ho comprato quello nuovo. Grazie mille, tanto non lo uso. No. Parte le porcate. Lui si pulisce i denti col Vim, è famosa questa cosa. Questa è Music for You, Radio Sherwood 97800, Radio San Donà 102.2 e siamo qui per un motivo particolare, oltre che per presentare la sigla di Raimondo e Sandra. Qual è il motivo, Cassiano? Ce lo puoi dire per cortesia? Perché c'è un anniversario il 25 di dicembre. Sì, ciao a tutti intanto. Buonasera. Siamo persi in cavolate. Ci divertiamo. Quale novità, d'altronde? Esatto. Allora, siamo alla quarta edizione, perché la prima è nata così da due menti malate, più una che è la mia, tra l'altro. Pensavo fosse sempre la tua che valeva doppio. Sì, in realtà è così. Non fare la persona seria per un istante, non ci sono riuscito. No, ma io lo lascerei andare avanti, perché sì, un po' di serietà in questo programma non fa schifo. Ok. E serietà, ce l'aspettiamo da Cassiano, siamo presi bene, ragazzi. Allora, parliamo della mucchiata natalizia. Il nome dice tutto, ci sono milioni e milioni di persone ammassate una contro l'altra e ci sono anche una pletora infinita di DJ e una giuria che voterà questi DJ. Parte nel 2007, quindi essendo 2010 siamo alla quarta edizione. E se Dio vuole noi non facciamo parte della giuria perché i nostri gusti... Beh, giustamente, perché noi dovremmo fare parte della giuria? Giuria d'eccellenza. Perché appunto, è d'eccellenza. Cioè, la verità, ve l'abbiamo chiesto, siete gli unici che ci hanno mandato il cachet per venire, cioè, ma che cacchio volete? Ma ragazzi, perché avete un programma che ascoltare 4-5 mila. Stiamo alla canna del gas, come si suol dire. Vorrei ricordarvi dove siete seduti. Cioè, chiedere due arance è anche Natale, santa pace. È il nostro cachet, facciamo le calze per i bambini degli asili, tutte queste cose qua, insomma. Io andrei con il primo pezzo della serata prima di parlare di, appunto, il motivo per cui tutti siamo qui. Il motivo scatenato di questo purpurì di cervelli all'interno dello studio. Simofonic, sei tu l'interpellato? Cosa stai facendo? Stai giocando a Sudoku? Hai interpellato cosa? Che sono in casella per prima. Appunto per quello. Tu che sei un espertone di music proveniente dalla British. Bene, dai, allora diciamo che questo brano dei Casebian che sta per arrivare, faccio le veci di Terzariole e Favotto che non hanno voglia di fare un benemerito a Cippa. Sì, grazie. Fai. Diciamo un aneddoto su questa canzone. È inserita, Club Foot appunto, in una bellissima motion picture in un film che si chiama Goal, che consiglio a tutti di vedere, non solo per il film che vabbè è un po' una cagata, parla di calcio, di uno che diventa famoso, Sergio Muñiz. Esatto, è il tizio messicano, vero? Bravissimo. Però la colonna sonora merita veramente, la trovate a 5,50 euro qua da Pasqua. Guarda che sei a prezzo pieno non te la dà il CD. Ah, perfetto. Sai che... No, ma torna fra 6 mesi che torna è a prezzo ribassato. Okay, scusa, no. È l'ultimo di casa. Guarda, ma appena andate via 2 minuti fa, fatta da ogni volta. Però comunque è gentile, che sì, se ti dice che a prezzo pieno non te lo fa comprare. Io lo voglio adesso, no. No, no, aspetta 4 anni che te lo vendo a 2 euro in meno. Quindi, ascoltatori di Padova, non comprate nei vostri numerosi negozi di dischi. Cosa, andate al 23? Venite a San Donà da Pasqua. Non andate al 23, venite qua da Pasqua, poi incontrate noi, ci buttate sotto le strisce pedonali. Costate, siamo anche qua vicini, tra l'altro. Noi siamo quelli vestiti da Gabibbo. 2 soldi, tiriamo su, compriamo un microfono nuovo per Favotto e una dignità per il sottoscritto. Intanto, Casabian, questa è Club Foot. Club Foot dall'omonimo album Casabian, questa è Music for Youth, Radio Cervo 97 800, Radio Sandona 102.2. Siamo tornati in studio con chi, Favotto? Con chi? Con i nostri ospiti della serata, che sono il sempreverde Simofonic e un etrino Stracassian, che ci sta spiegando la genesi dello Sby Night versione natalizia, e quindi della mucchiata natalizia. Quindi ci dicevi, nasce nel 2007 per gentile concessione di una santa trinità. Da lì cosa succede? Diciamo che queste 3 versioni saranno al New Age Club di Roncade, che tutti noi conosciamo benissimo, anche i nostri ascoltatori da Padova ascoltano benissimo. Beh, si conoscono benissimo. Chi non lo conosce è un fallito. Esatto. Chi non conosce Lele, il dio del rock, è un fallito. Un saluto a Lele, il dio del rock. A caso, così anche a Gigi. Un saluto perché a Gigi. No, a... a mia mamma. E perché no, a mia zia. Non so. Hola Lorena, prego, continua. Esatto. Nasce a Noventa di Piave. Oh. Per l'esattezza, allo studio 15, che ora credo non esista più. C'è un bel Lidl davanti. Esatto, c'era anche all'epoca. C'era anche all'epoca? E anche il Fruttarolo c'era. Adesso ci sono anche i cinesi. Ah sì? Vabbè, ma non illuminiamo da queste cagate. Il 25 dicembre del 2007, dove un giovanissimo Simofonic suona addirittura come primo della lineup della scaletta di quella serata alle ore 20 per l'esattezza, e un giovanissimo, anzi non giovanissimo elettrobugo, perché era già vecchissimo, un pensionato, esatto, il pensionato Bugo, che vince il premio della giuria d'eccellenza dell'epoca, mentre Simone vince il premio del pubblico. Sì, e nessun pronostico comunque lo dava vincente. Ha suonato alle 20, esatto, ha suonato alle 20, e così si conoscevano già, ma poi comunque si sono fusi in un'unica entità che adesso viene chiamata Gain on Top. Come stanno i Gain on Top? Prima di continuare tutto il discorso sulle mucchiate. Bene. Se la passano? Bene. Ok, è una rockstar. O risponde bene o well. Ragazzi, io sono l'alter ego dei Black Rebel Motorcycle Club. Well. Maledetti, maledetti, maledetti. No, comunque volevo dire, volevo aggiungere una cosa. Prego. La prima data ufficiale dei Gain on Top è avvenuta il 12 gennaio 2008, cioè esattamente 20 giorni dopo la mucchiata, al compleanno di Gigi del New Age. E dunque tutto si ricollega. E a casa tua? Mi ricordo addirittura anche le maglie che indossavate. Erano delle maglie simpaticissime, con una cosa tecnica che voi DJ conoscete, ma io no. Assolutamente no, ma quella cosa, un equalizzatore. Esatto, equalizzatore. Quella cosa che si illumina per i profani tipo me, che però so spiegarvelo benissimo. Anche per noi che con gli equalizzatori ci abbiamo a che fare, esatto. Non so neanche io cosa sia. Ah, non sembrerebbe. Perché... Quando hai detto quella cosa che si illumina, io ho pensato, erano vestiti con delle tute dell'ANAS. No. Precursori. Adesso costano tipo 10 euro, mi ricordo Gigi le ha ordinate, costavano 60 euro l'una. No Gigi, guarda che ne è valsa la pena. Bravo Gigi. Precursore. Okay. Simo, parliamo di JJ 72, No. Well. Il tuo primo pezzo, no? La prossima canzone, ho pensato di portare una canzone in tema col Natale, che è fra tre giorni. Si chiama Snow, è di questo gruppo chiamato JJ 72. Si sono persi con gli anni. Chiamato da chi? Chiamato mi è venuto in mente in inglese che si dice cold. Cioè, chiamato dall'Ele del New Age. Chiamato dall'Ele del New Age. Sono passati gli anni, è peccato perché erano un gran bel gruppo, hanno fatto due dischi. Una bassista bellissima, tra l'altro. Esatto, che me. Pare fosse la fidanzata del cantante. Pare. Peccato. Pare, eh. No, perché se però non c'è un sperare. Mistero su questa band, che è proprio il nome, solo il cantante sa cosa vuol dire. E anche gli altri membri del gruppo non sapevano cosa voleva dire. E perché non gliel'abbiamo chiesto? Ma infatti chiamiamolo. Hai te il numero? Sì. Però io ho una mia teoria. Sì. Siccome lui è amante di Janis Joplin. Sì. Le JJ potrebbero stare su quello. È sul 72 che dobbiamo un attimo lavorarci. Probabilmente è una taglia di un seno. O il numero di botte che ha dato. Sì. Sì, però Janis Joplin. O il numero di cagate che abbiamo sperato in 10 sì. minuti. Insomma. Il seno dell'amorosa del cantante. Esatto. Dunque, bassista. Vabbè, ragazzi, se ma. Se ha dato Simofonic che JJ potrebbe essere Janis Joplin, aveva veramente un quartetto di ebeti. Se non c'erano arrivati. Ho detto loro. Potrebbe essere. E poi cos'è questa comparazione tra me e l'ebete? Scusa, no, comunque loro suonavano assieme a lui e non ci sono arrivati in tutti. Ok, ma mandiamo via i due conduttori che non servono a un cazzo a questa trasmissione e facciamola noi. Allora, gente, non è forum e io non sono Santi Licheri, perché sennò altrimenti non dovrei parlare. Comunque ci tengo a dire che Simone non sta leggendo nulla. No, infatti. No, io invece vi leggo che si ispirano a Smashing Pumpkins, Suede, Placebo, ecco. Manic Street, non si è sentito. Nel non CD, vale, cioè, non vale, secondo me Simone no. ha davanti no, un no, foglietto no, scritto no. a penna. No, aspetta che terza è una stronzata. Allora, un po' si ispirano un po' di tutti questi. Per fortuna non tanto il Placebo. Hai detto il Placebo? Che continuiamo ad odiare dalla scorsa puntata. Odiamoli, vero? Ma no, non in una maniera assoluta. Non solo dalla scorsa puntata, ma da tempi remoti. Comunque, secondo me ci sono delle influenze dei nomi che hai citato. Secondo me era una gran bella band che si è persa, non so perché. Purtroppo nel 2000 è rotti, per cui non se ne hanno notizie, è un bel sì, tocco. Sì, da anni. Tra l'altro, una delle poche bandiere del cantautorato irlandese. C'è cioè, anche Favotto questa sera, ragazzi. Ogni tanto è intervenuto dalla destra. Questi sono gli Jesolo Jesolo 72 e questa è Neve. Children go cursing at their own liquor. 97.8 Radio Sherwood, 102.2 RSD, ben ritrovati con i nostri ospiti. Sono le carte. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Come diceva Germano Mosconi, cos'è il rumore delle carte petate con la cola? E mentre due renne attraversano lo studio, noi ridiamo. E non hai detto renne a caso, venite alla mucchiata natalizia e capirete il perché. E sei anche albero comunque. Albero e renne. Ci sono delle determinate parole che forse torneranno. E culi anche, mettiamo in mezzo. Per chi gioca la settimana enigmistica, sono delle parole che fanno parte del bersaglio. Chiappe chiacchierate, come si suol dire. Siamo tornati in studio, non so se ve ne siete accorti, come ha detto Favotto, questa è Music for Youth, la settimana di porcate è riaperta e fortunatamente... La caccia è chiusa, apriamo una settimana di porcate. A funghi si può andare. Cassiano, prima del tuo pezzo, che ormai ci hai fatto una testa tanta, vuoi ricordare qualcos'altro, riportarci sulla strada giusta? Allora... sulla retta via, esatto. Seguiamo la stella cometa, visto che fra tre giorni è Natale. Polaris, esatto. Come dicevano gli Ash. Allora, siccome sono una... Polaris, come dicevano gli Ash, o il TNT. Allora, ci tenevo a dire due cose. La prima, che oggi non è il 22 dicembre, ma è il primo dicembre. Non è vero niente. E stiamo registrando. Queste sono cialtronate. E dopo dirò perché sono così inferocito. Tra poco lo dirò. Beh, possiamo fare una possiamo dire che possono telefonarci a un numero. Sì, ed è un numero in diretta. Sì, diciamo anche che sono le 23:20 del primo dicembre. Telefonate in diretta. Ah, non si poteva dire? No, ma è tranquillo. Okay. E poi che cosa continuiamo a parlare di questa mucchiata natalizia. Certamente. Si è spostata nel 2008 al New Age Club di Roncade, risalutiamo Lele, risalutiamo Gigi, due persone fantastiche, e la gente che era un po' schiva all'inizio si è poi ricreduta, anche chi ascoltava un po' rock, a passare e lasciare un po' da parte la famiglia, e quel giorno si è catapultata in questo club e ci siamo ritrovati con un migliaio di persone ammassate, ed era una vera e propria mucchiata natalizia comunque, perché il termine è simpatico, diciamo. Lo slogan è DJ's Fight for Your Right to Party. Bravo, oh. Citazione anche, colta. No, no, anche se ho notato che comunque for youth lo dici molto meglio tu. Comunque vorrei dire che era una citazione di Cocciante. Ecco, questa è la seconda cosa che dirò ora. Ecco, adesso per piacere facciamo tutti un minuto di silenzio. Esatto, allora ci tengo a dire che mi è stata no, non era quella. Ci tengo a dire che mi è stata bocciata una canzone di Riccardo Cocciante, Tu sei il mio amico carissimo. Per tutti i cinquantenni e le cinquantenni e le casalinghe in ascolto, io sono veramente affranto. Cantacela. La canterò dopo. Guarda che puoi, cioè noi ti diamo la possibilità. Almeno il ritornello. Né soldi, né donne, né politica potranno dividerci. Tu sei il mio amico carissimo, non tradirmi mai. Che poi ci stava anche un po' col tema natalizio, visto che fra tre giorni è Natale. Esatto. L'amicizia, la neve, fare la carità. Ci stava, era un po'... cioè io l'ho scelta appunto per questa puntata natalizia. Tu l'hai scelta pensando a noi e noi te l'abbiamo tolta. Esatto. La puntata è ufficialmente andata a puttane. E vabbè, andiamo tranquilli. E l'ho sostituita così al volo con una canzone sempre meravigliosa, sì, dei Creedence Clearwater Revival, di Looking Out My Back Door. Questi ragazzi attivi dal 67 al 72, come dice la nota qui davanti a me, il primo di dicembre, vorrei ricordare, vero Favotto? Sì, assolutamente. Beh, una diciamo delle pietre miliari del rock americano, secondo me. Fanno parte anche della colonna sonora di un film dai buoni sentimenti che si chiama Remember the Titans. E anche di Radio Freccia. Esatto. Anche di Radio Freccia. Se proprio vogliamo stare sul local. Non era questa la canzone però presente, no, in Radio Freccia. Era forse When You Ever See the Rain. Oh yeah. Proud Mary. Proud Mary. Esatto. Non lo so, non mi ricordo. Susie Q. E Simofonic saluta. Potrei cantarti anche Susie Q. Voi. Oh Susie Q. Oh Susie Q, baby, I love you. Grazie. Potrei cantarti anche una di Pupo. No, basta. Basta così. Un incontinente simofonico. Comunque questa canzone parla, credo. Cassiano, credo di aver casinato. Capito, perché non leggo i testi, ma cerco di capirli, perché sì, il mio inglese è veramente fantastico. Parla di uno dei Creedence che guarda sulla porta del retro della sua casetta in campagna e vede delle cose molto strane, tipo elefanti danzanti. Comunque si sta divertendo molto. E uno si fa delle domande su come, esatto, lui li può vedere. Esatto, esatto. Creedence Clearwater Revival, questa è Looking Out My Back Door. Locked the front door, oh boy. Got to say listening to buffalo winds. Do, do, do, looking out my back door. Tambourines and elephants are playing in the band. Won't you take a ride on the flying spoon? Do, do, do. One wise apparition provided by magician. Do, do, do. Looking out my back door. Siamo alla ricerca dei nostri cervelli scappati poco fa. Questa è Music for Quark con Piero Angela, Lele Tezzariola, Alvise Favotto, Cassiano e Simofonica. E Simofonica Angela, ora ci illustrerà i segreti del Tempio di Tutankhamon. Bentornati in studio. Non so niente di Tutankhamon, però se volete posso parlarvi delle tartarughe di feltre. Salutiamo i Lovin' Elevator che tornano. E salutiamo anche Electro Bugo, che dobbiamo ancora citare fino adesso, il mio compagno di avventura. Sì, povera bestia, dov'è? Perché lo avete abbandonato? È a casa con la moglie, ragazzi, è un uomo sposato. Non è come noi che non abbiamo un egnostrato di donna al nostro fianco. Io mi accontento di Cassiano. Esatto. Sento i Casebian ancora in sottofondo. Ci dici il sottofondo di questa sera, dai. Che noioso sto programma. Di questa sera, primo dicembre, vorrei ricordare. No, è 22 oggi. 22? È il 22. Non badate al cantante, come diceva Ligabue in Buon Compleanno Elvis. Come dicevano i Califfo, non sparate sul pianista. C'entra niente, ma ci stava. Torniamo a noi. Qual è la line-up di quest'anno? Qualcuno se la ricorda tra gli organizzatori? Ci provo. Non abbiamo nessun foglietto davanti, come dissi prima. Possiamo testimoniare. Però magari due io, due voi, due... Sì. Non so. Partiamo con... Allora, perché viene suddivisa così. C'è una line-up ufficiale di DJ in gara, che verranno votati appunto dal pubblico e dalla giuria. E dopo diremo anche i nomi della giuria. Sì, diciamo anche quant'è il premio, ragazzi. Non è che ne si scherza. No, non si può parlare di soldi. 500 quindi. Euro. E il secondo premio? 200 euro. E il terzo? Niente. Bene. Comunque verrà il tutto condito da una coppa ed una medaglia. Una molto, coppa, molto, molto ambite. Una coppa nel senso di salumi, vero? No, la coppa del nonno. Ah, ok. Oh, beh, un gelatino che al 24-25 ci sta sempre. Cioè, fra tre giorni. Esatto. Allora, la line-up, praticamente, i Gain on Top, che ormai da tre anni... Poi, in realtà, l'abbiamo fatto perché... Perché io posso parlare dei miei gioiellini, perché sono i miei gioiellini. Avrebbero vinto sicuramente loro. E possiamo dirlo, Simone. L'ho appena detto. Allora, abbiamo tolti da questa competizione, che in realtà non è una competizione, ma è un modo per stare tutti assieme a Natale. E dalle 8 alle 4 di mattina, con un intervallo di mezz'ora, dove suoneranno i Gain on Top, si sfideranno tutti questa pletora di DJ, che dopo dirò i nomi di tutti, perché ora non me li ricordo. Quindi, in questa pausa, io me li scriverò in questo pezzetto. Beh, dai, diciamone, dai, qualcuno ci viene in mente. Kelemi, Synth Bros... Marca T, Michael Salomon, Vanio Franchin, Johnny Chaos, Morfunkers, Twins FM, Sam Scrubber, Sam Scrubber, Chicago Guys, bravo, salutiamo Zippo, non mi ricordo il resto. Momo suona. Momo, bravissimo. Momo, è Momo, ecco, che metterà del gran rock alle 3:30 dopo tre ore di cassa dritta. Ce n'è un altro, The Up Vat. Come dimenticarlo dopo la sua performance al TNT. Detroit milita. Perché tra l'altro Momo potrebbe mettere, datemi una lametta che mi taglio le vene all'improvviso. Potrei metterla anch'io prima, visto che l'anno scorso ho messo gli 883 con hanno ucciso la Moragno. Non ce ne siamo accorti, se Dio voleva stavamo già su un altro universo. Momo, beh, la mucchiata va un po' così. Penso e do in mente te. Sì, Momo, che ringraziamo, un after show spettacolare dopo, cioè, gli BRMC. E veramente elementi per un'analisi sociologica. Detto questo, siamo già al pezzo successivo. E che sì, cosa mi arriva in, allora, muso diretto? Andiamo a parlare dei Gorillaz. Gorillaz assolutamente no, ma... Sì, sì, Gorillaz assolutamente sì. O forse tu dicevi perché non sono loro. Perché non sono loro, cioè, nel sono, senso non che sono. Il pezzo originale è degli XX. Vedo non vedo XX o 20 in numero romano, esatto. Allora queste o XX come o si diceva in epoca di regime, quindi doppio pareggio o i 20 gli XX fanno un singolo abbastanza famoso loro che si chiama Crystallized. Questo Crystallized a me piaceva. A Simofoni che invece fa cagare, giusto per dirla così. Allora, io devo dire che gli XS sono la classica band, e ora tutto il mondo, come l'altra volta, mi odierà, che va di moda e smetteranno di andare di moda fa esattamente un anno, anche se sono decentemente bravi. I Gorillaz, invece, che non vanno di moda, ma sono veramente bravi e spaccano i culi a tutti, hanno fatto una cover di questo brano, rendendolo, se possibile, più bello dell'originale. Anzi, a me piace sicuramente più questa dell'originale. Dunque, io direi che ringrazio Music Ninja per avermelo, che è un blog che già è quello che avevi sponsorizzato la scorsa volta. Ringrazio questo blog per avermi fatto scoprire questa canzone, che è veramente un trip. Tra l'altro, con il famoso stile Gorillaz, per quanto andremo a sentire, vero caro Simofonico? Assolutamente no, è uno stile Gorillaz un po' così camuffato, però merita, ascoltatevela. Per cui, per voi che amate i platani e la strada dritta quando ci sono le curve e le nutrie, questa è Crystallized degli XX, una cover dei Gorillaz. You've applied the pressure to have me crystallized, and you got the faith that I could bring paradise. I'll forgive and forget before I'm paralyzed. Do I have to keep up this to keep you satisfied? You don't move slow, taking steps in my direction. The sound echoes. Does it lessen your affection? No. Oh, Crystallized degli XX, coverizzata dai Gorillaz. Grazie Simo Phonic per questo pezzo che veramente merita. Purtroppo un po' lentino, ma io apprezzo lo stesso. Alvise Favotto, è il tempo dei contatti ed è un gran peccato, come ho detto a microfoni abbassati, non avere la sigla e la prova del cuoco. Vai. Gentile radioascoltatore di Music for Youth, è il 25 dicembre, quindi tra 3 giorni, e aspetti di andare alla mucchiata natalizia. Sono le 5 del pomeriggio e dopo il tuo pranzo di Natale ti chiedi: perché non fare uno spuntino? Allora Music for Youth ti consiglia riso e verze con salsicce. Ci chiami allo 0421 560993 e ti diamo questa ricetta composta di 4 salsicce cotte, 3 etti di riso, 30 g di burro, 30 g di pancetta mezza verza, un rametto di rosmarino e, per i palati fini come ad esempio Simo Phonic, anche uno spicchio d'aglio e 3/4 circa di brodo e sale. A questo punto, se hai tempo, scrivi tutti gli ingredienti e mandaceli al 0421 560994, che è il nostro numero di fax. Nel mentre che il fax parte, perché ci vuole sempre un po' di tempo, fai soffriggere la pancetta tritata in una casseruola con il burro, ma lo fai a fiamma moderata. Unisci il riso e la verza tagliata a listelle. Fai insaporire per qualche minuto, quindi aggiungi il rosmarino e l'aglio tritati. Sali, versi poco per volta e poi porti a cottura. A questo punto fai una foto e ce la mandi per mail a radio@radiosandona.it. www.musicforyouth.wordpress.com è l'indirizzo attraverso il quale prenotarsi per delle sonore lavande gastriche coadiuvati da Cassiano, che ci darà una mano nell'ispezione. Puntini puntini, ci dovrebbe essere il minuto di silenzio, ci siete con le mani sulla bocca, non vorrei dire altro. Prima dell'ispezione, ovviamente. Su sherwood.it abbiamo ovviamente la nostra pagina al quale potete scaricare questa puntata, così come dal blog che vi ho detto prima, podcast mp3 feed rss a pioggia, visto che dicembre si spera non sia come novembre. Under my umbrella andiamo a sentire la prossima canzone, che sono gli Holy Fuck, la proposta della settimana, come nelle migliori radio anni 80. A questo punto gli Holy Fuck, combo canadese dedito all'elettronica e sempre alle, che cosa fa voto? Alle tende. Gli Holy Fuck li conosciamo, in realtà no, sappiamo che sono di Toronto, se non sbaglio. Sono di Toronto, sì. E che sono dediche a questa elettronica particolarmente ritmata. Mi ricordano i Battles. Non solo, in realtà, ma anche, ad esempio, noi che tiriamo testate sui muri. Sì, oppure anche, non lo so, una Vaporella, un Frigimeglio DeLonghi, queste cose. Stiamo parlando però più musicali. Di ragazzi comunque che vengono dalla Nuova Scozia. Ci sono le compagnie aeree che si incasinano per la Nuova Scozia. Sappi che c'è gente che è stata capitata in Nuova Scozia, in Canada, mentre sperava di andare a tutt'altra parte. Nuova Scozia in Australia. Esatto. È smontata e ha detto: bene, siamo arrivati in Australia. No, non è vero niente. No, ci sono dei pinguini. Giuro, E gli hanno pagato il soggiorno a quella gente lì. Li hanno sentiti una settimana perché poi non potevano più tornare indietro. Si sono anche trovati bene. Dovremmo provare anche noi. Holy Fuck, Red Light, l'ultimo album, Latin. We'll be right back. Holy fuck, questo è Red Light, il loro singolo estratto dalla loro ultima fatica discografica. Ve li consigliamo caldamente perché a noi sono molto piaciuti, quindi andate a sentirvi il disco. Io lo comprerei anche, lo trovassi. Potrebbe comprarlo anche la giuria intera della mucchiata natalizia, caro Cassiano barra i soldoni Simofonte. Che gli diamo, anche sì. Ok, beh, dove vengono pure pagati sti qua? Ovvio, ovviamente, in realtà la giuria variegata comprerebbe di tutto, credo. Variegata alla frutta. Esatto. Dopo aver ascoltato questa registrazione comprerà anche il mio inedito di Riccardo Cocciante. Certamente. E dei Creedence. Benedetta quella volta che non l'abbiamo messo, vara veramente. Cioè, si chiudeva la questione con poco. Ma insomma, allora, chi mi annovera la giuria d'eccezione? Trattasi di gente presa quella. Vagabondi, esercito del surf, gente del di strada. Anche. Desert anche. Allora, la giuria viene cambiata di anno in anno. Ci sono alcuni elementi comunque che sono dei fulcri, dei cardini. Appunto per questo è una giuria d'eccellenza, perché comunque gente che fa parte della nightlife sandonatese, veneta e non. E italiana. Che diciamo. Movida incredibile, vero? Esatto, eh? Fantastica. C'è appunto la Sandona Power, che sono i nostri amici Mirko Finotto e Enrico Scapolan. Dico bene, Simofonic. Che loro... Sì. Con il nocciolo duro. Esatto, della con il fratellone, tra l'altro, Rudy. E con della gente da 1000 Perticus, sì. 1000 pertiche. Il nostro amico Limon, in arte Limon, non sveleremo la sua vera identità. Ma forse anche la carta d'identità dice quello, eh? Sì, probabilmente sì. Manuel Furcolin. Esatto, grazie Simone. Poi chi abbiamo? Abbiamo Shakespeare. In love o meno? In love a quanto pare. Sì? Sì, sì, molto in love. Oh. Un momento Music for Youth 3000. Maria, cascando la metta nella mix volume 5. Io ho anche una mela nel giubbotto, tra l'altro. Che c'entra, tra l'altro? Beh, il tempo delle mele. Bravo! No, scusate, scusate. Poi chi abbiamo? La Chiari, cerchiamo anche una donna, per favore. È la nostra Reginetta, tra l'altro. Reginetta alta 1,80 m, la Chiara Rigoni from Abano Terme. Poi abbiamo Cento Canesio, che è uno dei due capoccioni di Lobster. Abbiamo Mistaman, un rapper, vabbè, che tutti lo conoscete, dunque non è inutile che diciamo chi è. Quindi la giuria è formata prevalentemente da nostri amici, ma anche da persone molto note nell'ambiente e che ne sanno appunto di qualsiasi genere musicale. Ha mandato una mail l'altro giorno, purtroppo non riesce a venire. Davide Mengacci, contattato da noi. Davide Mengacci, padre di Rudy Zerbi di Sony. Si crede, forse fino all'ultimo non lo sappiamo, verrà sostituito dal mago Silvan, che ha detto che la tua proposta è irrisoria, dunque dagli... Veramente risibile. Ah, veramente risibile. E abbiamo anche sappiate la mail. Che non bastano 2000 euro per chiamare mago Silvan. Ma siamo impazziti? Non stiamo dicendo cavolate, no, no. È tutta la verità. 2000 bombe? Non basta. Abbiamo proposto 2000 euro, non bastano. Parliamo tranquillamente di soldi. Parliamo di soldi. No, facciamo abbiamo i conti in tasca. 2000 euro al mago Silvan, perché a noi, come ci sembra di capire, ci piacciono le cazzate. Sì, se no. Non buttare via i soldi. Altrimenti esatto. Non sareste qui, tra l'altro, non pagati. Comunque, la mail diceva questo. Ah, non la siamo pagati? Dai, ciao. Per ciao, il fantastico via. Spettacolo del magico mago Silvan è veramente risibile. Porco Giuda. Se il mago Silvan, visto che è della zona, se ci sta ascoltando, si vergogni, mago Silvan. Silvan! Maledetto cialtrone, cioè, ti vediamo a prendere, sappilo. È caduto un mito comunque, ma anche a e me anche un dito. Cioè, perché io... Se stanotte leviterai dal tuo letto, sappi che è stato lui. Se leviterai dal tuo letto, vuol dire che la pizza non era cotta bene. Esatto, stai ben attento. Soprattutto se domani mattina ti troverai ibernato nel frigo, ti troverai segato in due, non saprai ricomporti. Ma andiamo avanti con il se fino a domani, che è bellissimo. No, non c'è un se, ma sarai un sacco di farina con gli occhi. Se Silvan. Comunque continuiamo. Continuiamo. Sì, Silvan. C'è il tuo pezzo, se e vuoi. Silvan, sì. Comunque non l'ho scelto io, perché mettiamo i puntini sulle i. Li odio. Comunque io amo solamente Riccardo Cocciante e i Creedence Clearwater Revival e un'altra canzone che mi avete bocciato. Dire Straits, esatto. Dai, mo. Cantiamola. Cassiano canta Sultans of Swing. Riesco solamente a fare la solo di chitarra, ma non abbiamo una chitarra. Vai. Ce la puoi fare, vai. Tiro Basta, per cortesia. Jack Black. Chiamate la Neuro, fatemi una cortesia. Presentiamo i management. No, mi dispiace se abbiamo dimenticato qualcuno, però in giuria. Una corona di crisantemi. Tanto che noi portare la locandina, no? Ah, sì, c'è Tonez, attenzione, Tonetto del Laguna Beach. Grande Tonez. Molto last but not least, mi verrebbe da dire. Ultimo ma non ultimo per importanza, anche il nostro amico Articolo. Salutiamo anche lui. Salutiamo in associazione Revolver, aperta e chiusa parentesi. Basta, perché va sempre fatta sta cosa, visto che ci danno una mano anche loro, Normal Promotion di Marco Discovery. Pole de Bonopolis. Oi, prima o dopo capiteranno ogni anche due questo minuti studio. Ne verrà fuori in alto. Favoto, i management, che a quanto ho capito alla fine della fiera fanno schifo a tutti e non si capisce perché finiscono. No, ragazzi, mettiamo i puntini sulle MGMT. A me non è che fanno schifo, il primo disco piace. Questa canzone del primo disco non mi piace. Allora, sarà una bellissima Weekend Wars da prendere e voi me l'avete bozzata. Allora, questo è il secondo singolo estratto dal primo disco degli MGMT. Oracula Spettacolo. Esatto, si chiama Time to Pretend e è succeduto a Kids. Kids, tra l'altro, rifatta dai Pet Shop Boys in una maniera assolutamente... Ma rifatta da Kids. Da Kids. Con queste trasmissioni riprenderanno dopo la pausa. MGMT, questa è Time to Pretend. I'm feeling rough, I'm feeling rough. ragazzi si stanno ad occhi chiusi nelle avventure, e noi innamorati che le seguiamo da qua giù. Quando ti sorridono è probabile che sia un sì, ma quando si allontanano tutti insieme, e tu ci devi stare, inutile sperare. Basta, basta, mi rifiuto. Bentornati, era il momento delle porcate. Music for you, for Radio Sherwood 97 800, Radio Sandonà 102.2, e siamo in conclusione di puntata, purtroppo ormai. Le belle cose durano poco e a questo punto fra tre all giorni... good things must come to an end. Lo diceva Nelly Furtado. Sì? Sì, giuro. Allora ritiro quello che ho detto. Rome was built in a day, lo diceva? I Morciba. Anche Rome wasn't built in a day. Allora, detto tu. Sai qual è la cosa strana? Anche Samba Wamba. Sì, che non mi drogo. Anche, infatti. Lo dicono spesso. Allora, questo... Samba Wamba. Ma dobbiamo metterli, basta. I cannot do. Oh, ragazzi, la metto alla mucchiata fra tre giorni, giuro. Grazie. Oh, veramente. Sì, io, noi balleremo. Sono 24. Sì, sono 24, sono 3, non si è mai capito. Non lo sappiamo. Let it snow, let it snow. Fuori nevica, se è il 22 dicembre nevica, sì. È il 22 dicembre. Bentornati comunque, MFY Favotto, si diceva, siamo in conclusione di puntata. E sì, sto giro veramente mi dispiace, mi secca. Sì, no, perché guarda, mi stavo divertendo. Non tanto per l'assenza del tuo fancione per un'altra settimana, quanto perché mi tocca liberare i cani prima di tutto, che corrono dietro a sta gente qua, che ora se ne va dallo studio. Cassiano, è stato... Questo lo dici tu. Un piacere, però ora è tempo di essere professionale. Se vuoi ricordare tutto quello che riguarda la mucchiata natalizia e poi porcate e tutto il resto che ci sta intorno. Allora, anch'io sono stato molto contento di essere qui. Faccio la voce professionale, anche se lo sono stato fino ad ora. Il 25 dicembre, cioè fra tre giorni, si terrà al New Age Club di Roncade, in via Tintoretto 2, addirittura mi sembra di ricordare, la mucchiata natalizia. Festa ormai riconosciuta e conosciuta da tutti. Partiamo alle 8, finiamo alle 5 di mattina. Mi raccomando, arrivate presto, perché gli altri anni avete fatto la coda fuori e siete arrivati comunque un po' tardino. Diciamo che alle 8 apriamo, quindi finite il panettone, raggiungeteci al New Age Club di Roncade il 25 dicembre 2010. Confutiamo il fatto anche di Elio che dice Christmas with the yours, Easter what you want. Facciamo il contrario quest'anno. Venite con noi a Natale e a Pasqua state con la vostra famiglia. Dunque cambiamo un po' le abitudini. Ammucchiata natalizia! Jingle bell, jingle bell. Favotto, io e te ci saremo, non in virtù di giuria, ma in virtù dei ciarlatani. Sì. Fateci anche pagare il doppio per cortesia all'entrata. Allora, ricordiamo che l'entrata è euro 12 con drink inclusa, per Favotto e Terzariol euro 24. Con sbadilate incluse sulla schiena. Con esatto. Sbadilate incluse. Esatto, ci danno anche tipo una drink card per del cherosene. Evviva. Potremmo darvi come gadget due fratini. Ma proprio gelidi. E poi non stiamo scherzando. Mandarci a pancia all'aria fuori nella zona fumatoria. Già una volta, ora sputtaniamo il Terzariol. Ha avuto dopo una serata sushi o una roba del genere. Sì, sì. Ha avuto un inconveniente ad una spy night. Io non vorrei che potesse succedere di nuovo. Sì, beh, che il Terzariol mi va via, mi perde il DJ set dei Gain on Top, perché deve andare in un campo adiacente a liberare il suo intestino. A liberare. Sì, Favotto, non Love importa. Love is in the air. A liberare amore, sì, è molto bello. Allora, siccome noi dell'originalità non ne abbiamo mai fatto un motto, con che cosa puoi chiudere il 22 dicembre? Con una canzone che parla di buttarsi sotto i carri mascherati in retromarcia a giugno? No, assolutamente perché no. Perché lo fai già a Carnevale. Una canzone di Megadeth, forse. Sì, esatto. Reinterpretati però da Frank Sinatra, comodamente. Una cover di Frank sui Megadeth, sì. E la cover è di un famoso pezzo dei Megadeth che è Have Yourself a Merry Little Christmas, che è il nostro tributo al Natale. Il famoso auguri e vovi duri, come si dice a Natale un po' anche a Pasqua. Alvise Favotto, tanti auguri Babbo Natale. Noi ci vedremo con le pance gonfie e i chili di Giuliano Ferrara addosso. Grazie. Comunque volevo dire l'ultima cosa, veramente poi chiudo il microfono e lo butterò fuori da questa finestra, tanto non funziona, non si sente la mia voce. Bambini, se siete all'ascolto, Babbo Natale non esiste. È vostro padre, porca troia, che lo vedete che è uguale. Non esiste Babbo Natale. Arrivederci. Io l'ho scoperto quando ho trovato i regali in cantina 20 giorni in anticipo. Era il primo dicembre, penso. Io un po' come oggi. Io sarò stato stupido, magari lo sono ancora, però a me l'hanno detto i miei genitori ed ero in terza media. Ho pianto. E sei cresciuto così, forse è anche un bene. Tra l'altro, cioè, Simone dice che era mio padre, ma in realtà era mio nonno che si vestiva da Babbo Natale e non mi accorgevo che era mio nonno. Tristissima, adesso, però reale. Io suggerirei di prenderci tutti per mano e portare questa trasmissione al termine. Non capisco perché non abbiamo chiuso la trasmissione. Altro che Frank Sinatra, cantavamo tutti presi per mano. No, i mezzi non c'entrano un cazzo, però è Happy Christmas di John Lennon. Invece no, mi dispiace. Fai partire Franco. Franco Sinatra, Have Yourself a Merry Little Christmas. Ci sentiamo prima o poi, no? Have yourself a merry little Christmas. Let your heart be light. From now on our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. The fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now.